Sì. Tore. Tore. Mi senti di cambio? Sento male. Male. Proprio a mare. Tore. Gianmarì, io ti ascolto bene a te. Anche a Marino ieri ascoltavo bene. Ah, solo Graziano e coso. E Bacchisio. No, quell'apparecchio non sa niente, tu. E che te sia proprio scale long. La radio è fortissima. Già seguo quello piccolino già. No, con l'altro sono. Ma io ho detto, attaccalo a vedere un po' quello che stava funzionando male ieri sera. A vedere un po' come esce. Lo voglio sentire a vedere. Sì, adesso no. L'ho conservato, l'ho messo da una parte. Ah, si potrà tenere in su. Ah, vabbè, allora. No, questo ragazzi, questa funziona sempre perfettamente, ma bomba, ragazzi. È un bombotto. Report, Mike, mi ricevete il cambio. Chi è? Oh, ma qualcuno c'è tu? Sì, ci sono io. Chi è? Visto, abbassa bene la portata però, Ah, boh. Non so nulla. Adesso va bene. Adesso qualcuno c'è? Sì, ci sono io in ascolto, cambio. Ah, tanto, io parlo con te, mi rispondo. E ce l'ha portata direttamente, boh. Tore! Sì, Gemariglia. Se non so chi sia, che non ci compreso nulla. Ah, qualcuno c'è? Sì. Non lo so, vieni avanti, l'amico. Mi ricevete? Boh. No, non lo so, Gemari. Fa il passaggio breve fa, e quindi non lo capisco. Cazzo, ma mi sentite o... Se parli così, veloce, non riusciamo a capirti. Perché non so come mi ricevete, se il segnale arriva bene oppure arriva male. Guarda, la radio è perfetta. E il segnale è buono. Vabbè, è perfetto. Chietto! Non lo so, non me l'ha detto il nome. Vabbè. Così, Chietto. Quello bisogna a provarlo di nuovo, per un po' e come esce, come non esce, ho capito. Canda il tempo, attaccalo e lo proviamo. Sì, vabbè, anda bene, va bene così. Gianmarino, la signora, ci sentiamo dopo. D'accordo, dottor, ci sentiamo dopo, allora dai, dalla saccese una all'altra. Diciamo che è strano utilizzare questa frequenza PMR 446, comunque, ecco, la radio un po' fa dei difetti, però... Prova? Grazie, ci sei. È bello. Ciao, Giomari. Adesso sono rientrato. Oia. Vado a fare la spesa. Vabbè, come ci senti? Ti senti bene? Passata, Sì, vabbè, influenza non ne ho. La tosse, sono andato dal medico, ma ho detto che non ho niente. Devo fare... Come si chiama? L'aerosol e basta. 2 volte al giorno. Ma vediamo. E sì, fa bene l'aerosol, là. Da, fa bene. Almeno 3 volte al giorno devi fare. O quanto? No, 2 volte al giorno. Così mi ha detto, boh. Vabbè, se ti hai detto 2 volte, va bene ugualmente, dai. Già fa bene. Già non si muri, dai. C'è stato un incidente lì, praticamente, dov'è rimane Mari? All'uscita della piazzetta dalla parte di... Per andare, dall'uscita, dove c'è la piazzetta, dai, dalla parte però sulla strada di Alghero, non so se ce l'hai presente, lì, 2 macchine distrutte, a capo a pari si sono tutti. Va bene, l'importante è che alle persone non sia successo niente. Per le macchine che ne fanno macchine, capito tu. Ma ferite ci sono state? Sì, 2 ambulanze sono passate. Sicuramente sono fatti male, perché le macchine sono messe male. Boh, lì nella rotonda? No, più su dalla rotonda, più su. Praticamente, mi sa, le macchine possono uscire dalla piazzetta. Dove c'è il bingo, ce l'hai presente? Vado dalla parte vabbè, dalla parte che dove stanno le macchine, lì, fa appena chiuso del bingo. Ah, capito. Vabbè. Speriamo non sia niente di grave, ragazzi. Macello, eh. Ma sera tardi o presto? Marino, fai verso le 6:20, più o meno. Sì, è un quarto. Fai quello verso quello là lì. Per carità. Purtroppo è uscito. Che posso accabare si da cagini ogni tanto succede queste cose. L'imprudenza. Avviso. Bisogna andare piano, burro, bisogna essere attenti. Ma molte volte molte persone sono un po' distratte. Un attimo a succedere queste cose. Diciamo che Marì, quando uno sta uscendo da qualsiasi posto, sì, deve cercare magari di, perché secondo dove sei non ti fanno uscire, perché le macchine basta, ti mettere in mezzo che non piano, non è che tu unisci di goippo, è normale, se unisci di goippo, quindi magari sta camminando un po', ti prende in pieno, magari è successo così, le macchine sono molto molto messe male, sono distrutte davanti, tutte e due. Ma speriamo che le persone non siano gravi, dai. Succedono, no. Purtroppo è così. Sempre però la colpa della persona, dell'uomo. Perché si ricade attenti e anda piano, però non tutti siamo attenti. Ma è sempre la distrazione e l'imprudenza, capito? Sì, in effetti è così, Gio Marì, però non è dell'uomo, è più basso pure della femmina. Forse volevi dire dell'essere umano. Non è solo l'uomo che fa del danno, a chi la femmina non si cuti. Per carità. Ma chi c'è, Gio Marì? Sentivo un'altra voce. Perché c'ho l'altro acceso pure, capito? Sicché non mi sono accorto che stavano parlando anche loro. No, per baracchino? No, qua. Io ho sentito altre voci, capito? Lu, quando sto parlando, io posso ascoltare un altro a loro, capito? Anche se sto parlando, posso ascoltare a loro, perché non li disturba a loro, capito? E né loro disturbano a me. Ma loro chi, Gio Marì, scusa? Non ho capito, vabbè. Già te lo spiego un altro momento, dai. Scusa. Ma si chiama da Graziano, lo riposi, grazie. E sarà Rodula della neve per vedere la palla. Ne ha fatto lì alla Trossi, qua dalla Marina no. Qua niente. Ma lì ne ha fatto un bene, ho visto un bel di ghiaccio. Era tutto bianco oggi. Era tutto bianco. Dappertutto, vedi? Questi no, i raggoppo, i parenti, a dare da me, tutto bianco era, proprio bianco, bianco, bianco, E già me ne sono accorto che lo stavo scendendo, poi sono arrivato qua. Casa di Marina non ce n'è l'acqua. Si vede che passasse proprio questa zona qua, capito? Bisogna le macchine ancora piene, no, Gadarito? Le macchine sono ancora piene, ma il terraburo viene anche poco. Sei sciogliendo, Speriamo che ciao se lo. Non gli posso fare subito un poco. Ah, Marco, domani andiamo a sciare. No, Gio Marì, sai cosa fai? Esci in bicicletta, tipo una sgommata tra la neve. In bicicletta. In moto esco io, domani. Cazzo, l'attacco, lì sì l'attacco, cazzo, a posto delle ruote. Vabbè, dai. Il periodo suo, non si vuole fare. Lasciala fare, tanto non possiamo fare niente noi. Cosa fare? Non si può fare niente, no. Vediamo un po', sì, c'è Macchisio, Macchisio! Graziano! Ma ti rimando un messaggio, aspetta. Gio Marì! Vittorio parla, passo! Comunque, grazie a Cici, passo! Sbarbatelli! Tutti dormiti siete! Ma meno male si è scendato, così rifendi, giocando a palla di nevi. Cazzo, non può passare il fatto, dai. Ma ci sono tutti garaginati in un letto. Hanno visto due fiocchi di nevi. Tutti con un freddo, con una cuffia. E tu offrirai la cucca con un bombone. Luca, ci sei? Ma con i bomboni vado, Mari. Già ci sono, ti ho mandato un messaggio. Luca, ma mi sei? Però stanotte ha messo, nel telefono ho visto, meno 3 gradi. Secondo me domani mattina ci svegliamo tutti con la cosa bianca. A Graziano, l'ubbiglietto, io sono un pupazzo e finito a mangiarsi. Bella, adesso ti ho sentito, forse c'era il volume basso. Ma la base dai, adesso ci manda. No, era basso il volume, perché vedevo la luce e non sentivo. Se si dice studava, c'era il volume abbassato. Ciao, grazie. Ciao, Vito, se mi senti, sottoterra, sì. I sottoterra, i salesiani, metti tu ghiaccio, metti tu fiocchetti di neve, mamma mia. Fuori di Lugasco e lì sì. E la regia Giammaria fa un giretto. Sei fresco. Allora. Cos'hanno? Ho preso caffè. Oh, ya, per carità. E aspetta, sotto le ho fatto un altro mezzo bocco, Catta ci ha durato 20 minuti, bene. Catta è tutti biancati, no, che finirà un be finirà. Anche qua l'ha fatta, un bel bombo. Solo un attichiglio che è tutto infuso in terra. Ma se stanotte ne fa, mangiali via gli attichi. Prima era minuto a minuto, parava. Minuto a minuto, ha detto, ma... E dice su fracchetta, dice la cacca che cosa, anche lui è arrivato, da poi ha trovato, è rampato, e da poi è arrivato proprio alle rifosse, ogni barriata, cazzo, e 3-4 volte abbiamo caduto tutto. Era un volone grande, anche qua, però non ha attaccato, perché quella minuta, come si giocava in terra, si è sciolta subito. Credo, buio, da buio, c'è un freddo, mamma mia, da buio, ghiaccio tutti rimane. Rimane, gas, 24, meno ci rimane 24 ore, minimo, ti ghiacci tutti rimane, i fiocchetti. E allora, quei fiocchetti ti fanno bene, adesso non è ora di stare in giro con questo freddo. Devi rimanere a casa al calduccio, vero Giomari? Se è possibile, Mario, un grazie al burrone. Mamma mia, ragazzi, ti credo, da voi. Ma vabbè, io ci sono uscito tanto per divertirmi con i fiocchetti, ma non devo... Ma nulla ce ne sono, ci sono anche per sciogliere. Dovete vedere poi a fare, ci sembrava tipo un petardo da... petardi in carta. I lampi sono pericolosi, suonino, lampi sì. Quello sì, grazie, mamma mia, cai pittina. E a vedere se è arrivato quel ragazzino, quello Toremi. Attento, ci sei. Ma Tore è andato a prendere la 50, era stavamo parlando poco fa, si è assentato per andare a prendere la 50. Rientrerà subito. Luca! E Gio Mari, stavo provando... Non tagliare il gusto qua tra un po', che non farla. La zuppa di pesce stavo provando a cucinare. Oh, ciao Luca! Ciao Vittu. Capito Gio Mari, la zuppa di pesce. La cucina la minestra, tu. Ah? Se cucinano la minestra. Allora, beh, che se fa la zuppa... Ci vuole la minestra, Io ci metto sempre, taglio gli spaghetti, numero 3 a pezzettini. Mio marito, sta dicendo come si fa. Ah, come si fa? È facile a farlo. Catta. Qua, appena diario, preserme e cipolla. Appena peperoncino, un pomodoro. Ah, gli ho preserme e cipolla, appena peperoncino. Metti. Pomodoro. Ah, è un pomodoro ci mette a pezzi. Poi ci butta l'acqua. E poi faccio frizzare un pochettino. Dopo, quando faccio frizzare, allora si la piega. Ciao, arrivederci. poi già di va. E ci parla da tipi che è minoreggio, poi c'è da tanti culeggio, e poi c'è questa le ah, stavo dicendo, se c'è qualche pesce piccolino, lo tagli a pezzettino e lo fai soffriggere bene, capito? Perché gli dai sapore buono al brodo, capito? E per cui, tanto il brodo già lo coli, e poi quando bollisce che si può buttare a loro. No, no, Giovanni, è quello sul gelato, capito? Mischia, è misto, dai, ci sono pesci, poi sai, boh. Una... Non è brodo, è una zuppa di pesci stiamo cucinando. Con il sugo, del rosso, capito? Non dobbiamo fare un brodo, Luca, aspetta che te... Che, la senti parlare mia moglie? Sì, sì, sì, la sento, sì. Buonasera, signora. Ascolta, metti là, come ti dovevi dire, appena appena il prezzemolo, appena appena il cipolla con l'aria, appena appena il peperoncino, un pomodoro, e fai il sugo, appena appena il ciubetto, appena appena d'acqua ci vuole sempre, ma appena, poi quando è bello cotto ci butti i pesci, e perché ci vuole 5 minuti a cucinare. Capito, che pesci cucinano subito, Milù. Sì, sì, l'ho sentita, grazie, grazie. Adesso Marina già si sta... Lì sta buttando il tutto qua, aglio e prezzemolo, peperoncino, cipolla. Stiamo soffriggendo con i calamaretti e i polpetti che ci mettono più tempo a cucinare. E poi mettiamo l'altro pesce che cucina più tempo. Vediamo un po' cosa dice lo chef, Gio Mari, sei più esperto. Tu chef cosa dici? Va bene come sta dicendo la moglie di Gio Mari e anche come sta facendo Marina. Eia, si fa così, quel pesce là, l'altro lo metti dopo di un po' che hai cucinato quello che senta di più. Quello là gli dai una scottata e poi ci aggiungi l'altro, quello che cucina subito. E c'è Simone, è buona, Io ogni tanto me lo faccio, Io quando lo trovo bello, belli grossi, e me li prendo e me li metto in freezer, quando ne ho voglia di zuppa lo tolgo dal freezer e me li faccio, capito? Perché a me piace molto la zuppa, però mi piace poi con la minestra con gli spaghetti, li taglio gli spaghettini a pezzi numero 3 e cate è un bombo, e da voi rubescio, da voi mi mangio rubescio a ultimo. Ed è buona, lei è duro brodo, e mio padre lo fa di manzo. Capito, me hai lui. Ehi, a Gio Mari, sì, sì, sì. Adesso stiamo facendo, da poi se è pronto, lo diciamo se è buono o no. Magari lo porto allo chef a provare, se lui mi dice che è buono, glielo porto un po', da assaggiarlo. Voi grazie. Là, capisci. Se è buono, te lo sto dicendo, io lo faccio. Ma io lo faccio anche brodoso, perché poi come Gio Maria lo collo e mi cucino la minestra, la minestrina. O fin dei fini ci metto, oppure le stelline, quella pasta lì io uso, gli spaghetti no. I fin dei fini oppure le stelline, le puntine, faccio un brodino mi. Ed è un bel buono. Sì, ma noi non stiamo facendo un brodino, questa è una zuppa, ce la mangiamo così, senza mettere pasta. Tipo i crostini, ce l'hai presente? Comunque, grazie, ti volevo dire, non ti preoccupare, tanto Luca stava scherzando, non te ne forza. Infatti, quindi ho freddo. Già lo so, ma io da qua allungavo una cannuccia. Capito, mia? Già lo so che lo stai facendo la zuppa. È il brodino, la zuppa già lo so, già è buona lo stesso, senza il brodino, cioè un po' come di domani con un bar, è buona. Invece Vittorio, il padre ha detto che fa il brodo di manzo, anche io lo faccio di manzo, Vittù. Bravo Grazia, è buonissimo quello di manzo, poi andavo a mangiare a Garri, buona reddu, rilancia Gio Maria. Noi facciamo così, capito? Il brodo lo cogliamo e ci cuciniamo la minestrina, capito? Ci puoi mettere qualsiasi tipo di pasta che piace, no? Di brodo, puoi mettere quelle piccole, ma io insomma a me mi piacciono gli spaghetti numero 3, tagliati a pizzico, come quando fai il brodo, io non voglio succhetto, no, a me piacciono gli spaghetti e basta, ecco. Poi ognuno ci mette il sughetto, il succo o altro tipo di pasta piccola, capito? Poi quando mangi il piatto della minestrina, allora il pesce non lo togliamo, allora lo mettiamo nel piatto, poi a uno ce lo mangiamo, compare, capito? Bravo Giomari, già fai bene, già è buono anche così. Sì, Giomari adesso sta cucinando, vediamo un po', non so quanto ci metterà, 20 minuti, il tutto. Poi vediamo, 800 grammi sono. L'abbiamo mai preso, l'ha preso così a provarlo e poi se è buono la prossima volta lo facciamo diverso. Capito? 7 gamberi, poi 7 gamberi. E comunque c'è quel pesce, forse quel pesce è spada, buh. Un giorno siamo andati alla Crai lì. Cazzo, mai ho trovato un pesce così grosso, belli, cazzo, veramente grossi, almeno c'è qualcosa da mangiare, sapete quei piccolini, non c'è tutte spine, non lo mangi niente, cazzo. Infatti non prendo mai quei piccoli, io prendo sempre quei grandi, se me li sceglie me li prendo, se no non li prendo, io li voglio grossi, in modo che ci sia qualcosa da mangiare. Uno piccolino già lo tritiamo perché fa il brodo più buono, quindi ha il sapore più buono, capito? Però l'altro deve essere tutti grossi in modo che lo possa mangiare il pane, capito? Così deve essere, Giomari. Così. Vittorio, tu sei giovane ancora, tu mangi anche il marmo, mangi. Io mangio di tutto, insalata, brodo, minestrone, io mangio di tutto, lui non ci credere, non è perché se ho 16 anni non mangio tutto, no. Io mangio qualsiasi cosa che tu mi dai, ti puoi dare qualsiasi cosa. Io non mangio tutto, proprio il minestrone non mi piace, non mi attira, però diciamo fai 80%, dai, mangio quasi tutto. Io per esempio se mi capita mangio, cosa ne so, quello che mi capita mi mangio, ma non è che è proprio quando così al 90%, se a te non piace così tanto, non è che le persone ti possono costringere a mangiarlo. Come ti vuoi, quando mi invitano, no, se la cosa non mi piace, dico dammi 600 euro e mi compro quello che voglio. Vabbè, quello è giusto. Oh lui, la mia signora è brodo del pesce così, mi ha so quanto è buono, fa bene poi, senti quel sapore proprio, se è fresco il pesce, gatta, senti il sapore del mare, gatta, è un bambon, ma è rara ciappare questi brechi, però, ma, quando la ciappo lo biglio, però chi c'è dei grossi? Minuto non li biglio mai, come c'è un zarretto. Il zarretto no, a me mi piace, però se lo vedo grosso, quello piccolino no, è tutto pila, cosa mai, non mai niente, capito? Perciò quando sono belli grossi, allora sì, c'è da pappare, vero grazie? Ehi, a me lo zarretto mi piace, frisso, a me frisso era molto gioia, mi piace un bel frisso a me. Sai, quando la ciappo in zarretta, ciappo la bocca io, che sono maturo. Bene, dai, buro la bocca, catta, e lo vengo frissono. Niente, una zia le mangio io. Un'insalata, io per intanto io ho rotto la ciappemo, la bocca no. Mi piace anche quello, mi piace, però zarretta è già tutto altro discorso, è più saporito, mentre la bocca rimane meno, insomma, un po' guisabile, là, però è buono ugualmente, dai. A voglia è buona, anche io quella, quando ce la compro, zarretto, boga, mi piace un bel frisso, anche col sughetto, sopra gli frigi, poi sopra ci metti il sughetto con i capperi, ed è un bel buono, lo mattessi così. E lo zarretto, vai, è l'ago dolce, infatti l'agrodolce, anche non è buono. certo. Come se mi fosse un baccalà, io un ristaccio pigro il baccalà e il filetto però pigro, proprio il filetto di baccalà. E beh, mi faccio il suetto, la galoce, via. E poca tira a me, chiatta, specialmente in questo periodo. E poco è buono, no. Il baccalà non è che ne vado male, già mi piace, però non ne vado male, sono sincero. Già c'è buono lo stesso. E rubescio, la verità, ho paura a mangiarlo, tipo le orate, capito? C'è un po' di spine, ho avuto brutte esperienze, allora lo evito. Guarda, se fai il sughetto al baccalà, come dico io, a mia moglie mi piace così, soffritto e basta, ma io lo mangio con il sughetto, mi faccio il sughetto con i pomodori, capito? Faccio cucinare bene i pomodori, appena il peperoncino, quando sto facendo metto un po' di aceto, atta, a mezzo la pisombra che è cotto. Altro dico niente, è un bambù, è buono, è buono, e poi ti stuzzica anche, capito? Per cui due o tre pezzi mi mangio io. Beh certo, a me piace il fritto, la verità, fritto è buono, ma comunque già si può mangiare. No, mi piace, mi sto mangiando un paio di noci, che il medico mi ha detto di mangiare anche le noci, non è vero, dai, sto scherzando. Ma sto mangiando perché c'ho fame. Prendiamo anche il frizzo e baccalaie, perché noi le prendiamo varie pale, le mettiamo a molle quando è proprio pronto, lo taglio a pezzi e lo faccio asciugare un po', le metto le buste e ce le metto in frizzo. Quando ci vuole il baccalà non faccio altro, apro il pozzetto e ho quattro pezzi e me le cucino, capito? Ah, io ce l'ho sempre, tutto l'anno ce l'ho il baccalà. Ecco. Sì, oggi mi vedo pure un dattareo, se volete saperlo. Oggi mi mangiato un dattareo e quelli battati in forro. Che malo, che si muore buono. È tutto buono, io vorrei appetito. Era fame. E via. Il dattareo è buonissimo, cacca. O se no, quando fai lo... l'accordo, come si chiama? Catta. Dall'agnone, catta. Oh, io lo fa a ruccio. A che maru è? Non ti dico niente. Boh. Sì, no, ma pure chi sono ti credi assai? Chi sei pure come a te? Come te sei l'agnello. Tra me niente, sono rimbiati. E me li comprei già poscia, se muovo in un bosteggio, cada giù, uguale a che tessina, e anche la bocca la batte, ma io le tessine sono tranquillo io, boh! Sì, mamma mia! Grazie! Ehi, sono buoni, sì! Oggi verano alle rospiglie le tessine d'agnello! E domani dirai oggi, grazie! Io no, non le mangio, non le posso mangiare. E perché, grazie? Che problema c'è? Non funziona l'apparato digerente come deve funzionare. Ma faccio un controllo, non si è andato, grazie. Vuole cambiato tutto, vuole nuovo. Sì, no, mamma mia. Ciao Marino, non vorci abbattere un ovulo mio. Cosa? L'apparato di gerente mio vuole cambiato, vero? Quella roba quando non funziona bene, bisogna stare attenti a quello che si massica, capito? Quello è fatto, e quello è una cosa seria, quando non funziona bene la cuzione è seria veramente, per cui bisogna mangiare quello che riesce a infuocare tutto, capito? Tu c'hai quel difetto e per cui certe cose non le puoi mangiare. È giusto, bisogna stare a quello che mangi. Lo so, io infatti quello che non posso mangiare lo assaggio e boh. Appunto, forse questo così bene. Eia, vabbè, già va bene così. Ed era il furumetti mio oggi, quelle testine d'agnello che c'erano all'Eurospi, Giovanni. Dove? All'Eurospi a Pratanietta. Ah, dappertutto ci sono. A che cosa? A Caclai ci sono, l'abbiamo bisogno da Caclai noi, da Bogu. La Savoia la giubilà da LD, lì di fronte a Camposanto, pure i Givi, capito? Dappertutto ci sono, no, a me di altro bene. Me le compro apposta a me le testine, capito? Oppure me la porto a mio genero e quando lo voglia. Bisogna me lo cucineggio, capito? E la carne io la mangio. Se c'è carne, l'angelo non lo mangio io, mi mangio solo le tessine e sono a posto. Già sono buone. No, vabbè, quando le basi, Baletta mi dà un pezzettino di cervelletta, assaggiare, però non ne mangio. Se ci rimani a Baletta, io no. Mio ci grazie a te, se forse non hai sentito già a pranzo, mangio un magnatore da stare o ribattati in forro. E poi il cervelletto, lo sai quanto da stare che dici mia, grazia? Io lo so, perché ho gli comprovato. Quando mangio il cervelletto, lo sai quanto da stare che dici mia, non hai idea. Però mi piace, la carta, oh yeah. Mi piace troppo, specialmente quando è piccante. No, ma a me me ne dà un pezzo, ho stato massaggiare il buco di cervelletto. O se no, i cervelletti me li compro quando ci sono, così, e me li cucina a parte, da a me. I cervelletti, chi sia mi piace, pure impanati me li fa. Ecco. Pistina, oggi sto preparando il brodo lo stesso, però in bianco, non di manzo. Che gli avevo detto, proprio se me lo faccio fare in bianco. E tu va bene, io ce lo mangiamo in bianco. Oggi di manzo, che oggi proprio lo volevo mangiare di manzo, che oggi di più. E tanta verdura. Brecco. Registrato il brecco. Abbatto il brecco. Gio Maria, buonasera a te e l'altro amico non so chi sia, venito da questo, buonasera circolare a tutti. Troppo basso sei, non si sente chi sei. Grazie a piccolina nella radio, da. Grazie, ti ho sentito. Oh. Cappa Luca, buonasera anche a te. Ciao Bini, è un po' basso il radio, sì, grida un po', mettilo vicino alla bocca. Lo sai, non c'ha vatto questo coso, non c'ha vatto. Da che parte sei, su o giù? Ma io sono vicino a te, dai, sono vicino a te. Non c'è bisogno di vatto, di mettere la bocca vicino alla radio. Perché se io me lo sposto, non è che mi senti, Positivo, guarda se va bene adesso. Vai Gio Maria, avanti. Sicuramente tu lo ascolti, dai, avanti. Un attimino, Lu. Riprendi tu, io rientro subito. Avanti, grazie, lo senti adesso? Sì, adesso sì, ma poco fa quando l'ho rilanciato l'ho sentito un filo basso basso. Ti rilancio a Vittorio, se ti senti. Vittorio! Sì, grazie. È entrato l'amico, non lo occupi. Sì, lo sento benissimo. E che poco fa non lo sentivo bene perché Mimo ci aveva avvicinato davanti alla bocca. Ehi, Luca! Sarà quasi cucinata quella roba. L'abbiamo appena messa. Ah, l'hai appena messa. Eia, cosa ti stavi mangiando, le noci? Io, adesso gli arachidi. Ah, no, già ce li ho anch'io, ma non aggiungavo. Va bene, riprendi tu. Vito e rilancia. Va bene. L'altro è benito, avanti Benì. Ehi, a positivo, guarda, io ho cambiato punto. Adesso com'è? Ciao Vittorio, buonasera da parte mia, benito a questa. Adesso stai uscendo bene e Luca mica ha rilanciato a te, come lo sei? Beh, se hai ascoltato a lei non hai ascoltato bene, ha rilanciato a Vittorio, no a me. Anda a bere una testa, dai. No, diciamo che arrivi bene come segnale, è la radio un po' bassa, capito? In confronto a Giacoso, a Gio Maria e Graziano la tua è molto bassa. O parli troppo lontano, o il microfonino lo stai usando? No, sto usando il microfonino della radio. Sto parlando non a voce altissima, ma proprio vicino alla radio, cioè radio quasi attaccata a bocca. Non è che puoi pretendere, cioè ci dobbiamo accontentare, Guffo, eh. È il portatile è quello, perché c'era anche io il microfonino, però usciva con la voce più bassa. Infatti non l'ho più adoperato per quello, il microfono del portatile. Aspetta, prova a attaccare il microfonino invece, vedere l'altro, a vedere come esce. Ehi, prova, io non l'ho messo più perché uscivo più basso, più sembrava cupa la voce. Te lo ricordi? Ehi, operato, te l'ho messo nella scatola e dentro la scatola. Ma grazie, che cosa uso io, mi? A me se mi va bene, a me per esempio uso gli auricolari, perché di queste apparecchiature che ho io, che hanno bisogno degli auricolari, ma gli auricolari mi vengono più male, perché devo sempre cliccare, ma molte volte non si sente bene, quindi non dico molte volte. C'è già anche io, ma non le uso gli auricolari. A chi da voi che hanno salami da giubbetti, non li vuoi che mi bruci la reci? Ehi, a te credo! Se no l'altra volta, quando stavo a te parlando, mi ho messo gli auricolari e mi stava assordando l'orecchio. Guarda, 1, 2, 3, prova. Adesso c'ho il microfono. Era più... ti sentivo meglio la tonalità della voce poco fa. No, ma adesso lo sentiamo bene, adesso si sente bene. Cosa faccio? Lo tolgo allora. Riprova a vedere. Bene. Ehi, questo è il microfono. Guarda, adesso sentami palmare. Com'è, grazie? Così ti sento più bene, pulita come radio. Con quello là sei cupo, è come il mio. Non lo adopero per quello io, perché fa la voce cupa a me. Ehi, grazie, quella là è una colonnina, quindi è un parla ascolta anche, capite? Quindi è una colonnina e te la fa cupa per quello. Lo so, ma non mi piace, infatti non ho più adoperato, l'ho conservato nella scatola sua e non ne adopero, no, non mi piace. Sta il microfono. Rilasciamo Luca! Eia! Oh, c'è qualcuno che sta rompendo la scatola? Beh, qua non sento nessuno. Ma Gio Maria ha sentato. Non è rientrato. Tore ACC. Ora non c'è. Vittorio, riprendi tu. Ma sta piovendo. No, non sta piovendo, c'è solo un po' di frescuccio, c'è. Invece non sta. Secondi, un attimo. Riprendetevela. Sì, tutti ai fornelli sono. Ti sento un po' graffiato, poco fa ti ho sentito graffiato, ma non è perché... ma sei in zona. Non c'è più nessuno. Luca, Ehi, a bene. Vabbè, combinando. Niente di che, da. Sempre alle solite, ma va bene, da. E beh, tu il telefono sistemato? No, no, ancora così, Ma non ho regalato un'altra cosa, dopo ti mando le foto. Ah, ho capito. Ho detto, mi hanno regalato un'altra parte. Sì, ho capito, ho detto. Ma funziona? A tratti. No, funziona l'iPad. Sì, però è un bel lento. E cliccando si fascia dure. Oh, c'è un mito, sì. Lo sai, più dannaggio di me non ce n'è. L'iPad ce l'avete un bel sottile. Cazzo, ma io non lo sapevo, chiccia. Cazzo, c'è il lento, non credo, no, ho schiacciato tutto il lento. Aspetta, dammi 2 minuti che ti mando le foto. Lu, ce l'ho mandato. A me non mi arrivi di nulla ancora. Non mi è arrivata. Ah, eccole, sì. Ah, non è un iPad. Ah, sì, un iPad della Mediacom. Guarda. Sì, però, allora, il discorso non sai cos'è, Beni. Vabbè, ci vuole il vetro nuovo, ma come funziona? Eia, me l'ha dato compare che l'ha preso nuovo al figlio, ma ha detto compa lo vuoi, tanto è lento, ma mio figlio non andava bene, e tu dammi lo. Ok, te l'ha dato, no? Vabbè, poi, fino a qua ci siamo, no? Adesso c'è il vetro rotto. Adesso c'è il vetro rotto, ma funziona bene. Ok, funziona bene. Però se tu ce lo vuoi velocizzare, praticamente devi recuperare le mail da quello che te l'ha dato, le mail, la password, perché se io te lo resetto, te lo porto a zero, lo resetto, praticamente poi mi chiede le mail del vecchio padrone. Sì, ho capito, ma non mi interessa resettarlo, farlo, non me ne affutti nulla, non me ne faccio niente, io credevo che si poteva mettere la scheda e usarlo anche come telefono, capito? E invece no. Beh, cosa mi vuoi fare, dimmi? Nulla, non lo so. Non lo so, vedi tu. Sennò, vabbè, sistemarlo è vendillo, cosa? No, Lu, per sistemarlo in quello mi sistema il telefono. Infatti. Ma lo dico, sistemarlo e te lo vendi, ma alla fine non lo so, boh. Vabbè. Se ne so, tienilo, boh. Non so cosa dirti. Se tu senti qualcuno che lo vuole, lì, vedi tu. Ma c'è il vetro rotto, anche se funziona, certo non te lo prende. Anche il telefono mio, c'è il vetro rotto, l'SSI, lo voglio vendere, ma cosa lo do? 22 euro, ma poi non lo vogliono perché c'è il vetro rotto. Non piace a nessuno il telefono con il vetrino rotto. Lo so, infatti lo tengo da parte. Magari cambiando il vetro riesci a venderlo qualcosina. Non so, dimmi che modello è, tanto ci sarà scritto. Così ti dico più o meno quanto costa il vetro. Dopo lo guardo sempre dietro. No? Dopo. Dietro. C'è scritto in piccolo. In piccolo. Tipo cosa ti posso di. PP-502. Guarda, è dietro comunque scritto. Ah guarda, ti ho mandato anche la foto di dietro. Ma io non riesco, vedo qua Smart Pad Go, però non vedo il modello, c'è scritto model, guarda c'è scritto dietro, model. Aspetta che guarda lui. Aspetta un attimo, sto controllando la roba da mangiare qua, aspetta. Eia. Grazie. Ehi. Dormitati sì. No, è dal telefono. Che stavo insegni, mi sono mandata. Luca! Buffo! Luca! Che ci facendo? L'hai vista quella che ti ho mandato? Ma se me li mandi a centinaia, boh, roba di nuda, no? Guardala quella che sta cantando la canzone come fosse una bambola. Poi mi butti giù. A adesso vi faccio una bella pulizia al telefono, vi cancello tutti i video che mi avete mandato, tutto, asetta. Ah, vai da diretta, dammi la cancella, un'imbriaghina. Dai, vi saluto a tutti, buona cena. Ciao, buona cena anche a te. A domani c'è il concile, ce la risentiamo. Vittorio, ci sei. Chi è che ha chiuso? Cosa, com'è che adesso non mi ricordo il nome. Ah, Benito, ciao Beni, chiudendo stai. Eia, dai, ciao Vittorio, ciao Lu, ciao Gio Maria, e ciao anche a te, il cuoco di Santa Maria di Pisa. Eia, ciao Beni, a domani. Stato subito, anzi, avanti a Rumburui, e Valenzuolina. Va bene, Luca, adesso chiudo, va. Ciao, buon proseguimento, buona cena a te, a Marina. E ciao Gio Maria se ci sente, e ciao a tutti chi sono in ascolto. A domani se coincide. Ciao, grazie, ciao. Ehi, ciao, ciao. Ciao, venite anche a te. Ciao a tutti, ciao, buonanotte. Ciao Luca, ciao. Ciao, ciao.